GR Europa. E buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. L'Europarlamento chiede di prendere posizione sulla Turchia in attesa del rientro questa sera in patria del premier turco Erdogan. Da Strasburgo si chiede l'intervento dell'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. It's about time for Mr. Erdogan. To sit down è arrivato il momento per Mr. Erdogan di sedersi e riflettere su quale sia stata la motivazione che ha mosso tutti questi manifestanti, dice Antigoni Papadopoulou, la sentite, europarlamentare cipriota, membro della delegazione euroturca, riflettere sul perché ci sia stata così tanta violenza nel comportamento della polizia, perché sono arrivati a uccidere due giovani per mettere in pratica la volontà di interferire nella vita di tutti i giorni dei cittadini turchi, perché questo è quello che sta succedendo. E l'Europa si interroga anche sulla crisi. Dobbiamo andare avanti con la definizione di un industrial compact per assicurare maggiore integrazione tra le diverse politiche europee, ha chiesto questa mattina il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi durante la conferenza europea sull'industria a Bruxelles, definendo essenziale lo sviluppo delle politiche europee su energia, ambiente, clima, commercio e concorrenza per reindustrializzare l'Europa, riducendo i costi e aumentando la competitività. Un altro tema di integrazione cui lavora il Parlamento europeo è intanto quello dell'integrazione delle politiche fiscali. Sarebbe più che auspicabile, dice Cristiana Muscardini del FLI, vicepresidente della Commissione Commercio Internazionale, al microfono di Laura Bettini. Io la trovo assolutamente necessaria e se eventualmente perché i tempi rischio di essere veramente lunghissimi e l'opposizione di alcuni stati talmente forte da rendere i tempi biblici, io parlerei almeno di armonizzazione. I paesi che hanno un sistema fiscale meno pesante, che hanno IVA più bassa, rischiano di assumere su di loro tutto che è l'introito dell'importazione e che dopo, quando il prodotto è entrato in quel paese, viaggia normalmente all'interno dell'Unione Europea senza problemi, con la conseguenza evidente nel caso dell'Italia che i nostri cittadini sono i più tassati, ma di conseguenza anche, come dire, i meno favoriti rispetto al mercato interno. E parliamo anche di calcio scommesse, ne avete sentito in GR24, ebbene il giro d'affari delle scommesse sportive illecite vale 100 miliardi di euro l'anno in Europa. Sono i dati della Commissione Speciale per la lotta contro la criminalità organizzata del Parlamento Europeo. Le misure più efficaci potrebbero arrivare proprio da Strasburgo. Una risoluzione in tal senso è stata approvata nei giorni scorsi. L'idea del Parlamento Europeo è di istituire un'unità investigativa comune per contrastare le scommesse illegali su tutto il territorio comunitario per evitare, dicono gli europarlamentari, che semplicemente ci si sposti da un paese all'altro. Ci fermiamo qui e naturalmente domani alle 13:15 ancora appuntamento con l'Europa. Intanto ancora buon pomeriggio. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.